9-3 minuti con questo stacco decisamente molto netto a 8 bit arriva Pensatech. Un buongiorno a voi ascoltatori, ma un buongiorno anche ai miei compagni di viaggio in questo mondo in 8 bit, ma questa mattina anche in 3D, che sono Marco Boscolo e Elisabetta Tola. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. E buongiorno anche da parte mia. In effetti, tra i 3D e gli 8 bit, questa mattina viaggiamo decisamente in altre dimensioni e altri tempi. Vi abbiamo già accennato prima, appunto, che questa mattina parliamo di stampanti in 3D. È effettivamente abbastanza affascinante pensare che non si possa stampare solo un testo, un disegno, un'immagine, una fotografia, qualsiasi cosa che si possa vedere in 2D, ma davvero degli oggetti. Vedremo poi come questa applicazione possa variare dalla scienza al consumer più basilare, più quotidiano. Certo, è affascinante l'idea che tu attacchi al computer una stampante e invece di uscirne un documento ne esce un oggetto che poi puoi usare, dall'oggetto di design, come accade anche nelle versioni più fashion e più trendy, ma anche oggetti molto semplici, giocattoli, come accade invece in quella che in gergo si chiama versione un pochino più grassroots, quella che invece noi definiremo più consumer da casa. Insomma, un mondo assolutamente tridimensionale anche per la sua complessità. E allora io chiedo direttamente ai nostri ascoltatori: cosa vorrebbero stampare in 3D? Un oggetto unico creato, disegnato da loro e che si possono stampare con una stampante 3D personalizzata. Allora, i nostri contatti, l'SMS è il 348 7649 289, ma ci potete mandare anche una mail a diretta @radiocittadelcapo.it e poi vi ricordo ovviamente i nostri contatti sui social network, su Facebook la pagina di Radio Città del Capo e su Twitter il nostro profilo di Pensatech, @Pensatech con il CH. A questo punto io farei partire direttamente il nostro Glossatech, che come di consueto ci spiega che cosa sono le stampanti in 3D. S come stampante 3D. Non pensiate di aver bisogno degli occhialini, come al cinema, per apprezzare i prodotti della stampa 3D. In questo caso la terza dimensione è assolutamente reale. Questo tipo di stampa produce oggetti veri. Gli ambiti di applicazione sono numerosi: design, fusione dei metalli, architettura, industria medica, solo per citarne alcuni. Le prime stampanti tridimensionali sono nate quasi 30 anni fa. In questo lasso di tempo hanno fatto passi da gigante in termini di livello di sofisticazione e di maggiore economicità. Esistono stampanti che sfruttano diverse tecnologie e che si rivolgono a diversi utenti. Ora anche gli entusiasti del fai-da-te possono permettersene una senza investirci un capitale. Il principio della stampa 3D si può grosso modo riassumere così. Un modello 3D virtuale viene tagliato a fette al computer. Le istruzioni delle singole fette o livelli sono trasferite alla stampante, che le utilizza per depositare strati di materiale uno sull'altro. Si dice quindi che è un processo additivo, che ha l'enorme vantaggio di produrre un oggetto praticamente finito senza produrre scarto. La stampa tridimensionale rende economico creare singoli oggetti tanto quanto crearne migliaia e quindi mina le economie di scala. Essa potrebbe avere sul mondo un impatto così profondo come lo ebbe l'avvento della fabbrica. Proprio come nessuno avrebbe potuto predire l'impatto del motore a vapore nel 1750 o della macchina da stampa nel 1450 o del transistor nel 1950, è impossibile prevedere l'impatto a lungo termine della stampa 3D. Economist, 10 febbraio 2011. E così la nostra Lisa Lazzarato con il nostro appuntamento settimanale con il Glossatech che ci ha accompagnato in questo primo capitolo del nostro viaggio all'interno del mondo delle stampanti 3D. Come avete capito è un mondo molto variegato che si può applicare in tanti settori ma che negli ultimi tempi è diventato di gran moda, soprattutto perché, come accennava proprio la nostra scheda, i prezzi delle stampanti 3D si sono abbassati notevolmente, permettendo un po' a chiunque di poter accedere all'acquisto di una stampante 3D e quindi poi anche di produrre i propri oggetti, insomma. Io immagino già i nuovi nativi digitali, tipo bambini come quelli che girano per le nostre case, che con una stampante 3D, insomma, potrebbero veramente riempirsi la camera di oggetti di ogni sorta. Un po' l'incubo. Un po' l'incubo, ma insomma questa gli ammenicoli da pulire poi, eh? Esatto. Ma questa insomma sembra la generazione dei makers, come l'ha definita Chris Anderson, l'ex direttore di Wired America, un po' contrapposta all'evoluzione di quella figura dell'hacker degli anni 80, invece di quello che si occupava di software. Qui invece ci si occupa di hack, di hardware, quindi di cose concrete, come diceva appunto Lisa prima. Vi aggiungo anche un'esperienza particolare di stampante in 3D che piacerebbe molto ai nostri colleghi di Chilometro Zero. È una stampante, si chiama Filabot, che funziona con filamenti creati da plastiche riciclate, che vuol dire che le bottigliette di plastica, quando si buttano a casa invece di metterle nella raccolta differenziata pubblica, si possono tenere a casa e inserire dentro la stampante 3D per poi creare direttamente oggetti. E a questo punto si potrebbe davvero andare verso i rifiuti zero. Rifiuti zero, io mi immagino già le scene in casa, ma che bello questo posacenere, sì, era fatto con le bottiglie dell'acqua riciclate, insomma, proprio qualcosa anche di molto snob in qualche modo, di estremamente cool, visto quello che è l'atmosfera attorno al riciclo di questi ultimi tempi. Ecco, però non solo plastica e oggettini per bambini, le stampanti 3D possono servire veramente anche a cose scientificamente molto più specifiche. E allora noi siamo andati a parlare con l'ingegnere Paolo Matteazzi, trevigiano, docente di ingegneria a Udine, che ha fondato nel 94 la MBN Nanomateriali, un'azienda specializzata proprio in nanotecnologie, che produce una speciale stampante in 3D che utilizza proprio le polveri nanotecniche. Allora sentiamo proprio direttamente da lui di cosa si tratta. Il gruppo MBN ha sviluppato delle tecnologie di fabbricazione dei materiali con strutture molto fini, sulla scala di nanometri, miliardesimi di metro, e ha anche sviluppato delle tecnologie di stampaggio, diciamo, tridimensionale con laser. Questo vuol dire che le cosiddette polveri vengono utilizzate come materia prima per produrre gli oggetti? Sì, questo è esatto. Naturalmente l'applicazione non è solo per queste stampanti tridimensionali, che è un'applicazione molto ampia e riguarda il settore manifatturiero. Queste polveri vengono utilizzate anche in altre applicazioni, ad esempio nell'ambito degli utensili, del medicale, ad esempio dell'utilizzo nelle protesi e altre applicazioni. Parlando nello specifico delle stampanti 3D, si parla di macchine per produzioni altamente specifiche oppure possono essere utilizzate anche per altro? Ma si parla innanzitutto di una vera e propria rivoluzione, diciamo, nell'ambito delle tecnologie manifatturiere, una rivoluzione che sta avanzando, non è già avvenuta, ma è alle porte, perché consente di passare da un'ideazione, diciamo, al computer, un disegno ad esempio tridimensionale, a una realizzazione del componente del pezzo in materiali che possono essere anche metallici. Questo è poi l'avanzamento rispetto al passato. Ci può fare degli esempi? Cioè adesso quali sono i settori di applicazione che già state sfruttando e quali invece potreste guardare nel futuro? È una tecnologia, appunto, come dicevo, di frontiera, per cui al momento le applicazioni sono applicazioni principalmente di ricerca, però le applicazioni di queste macchine possono essere adattate a svariati settori industriali, dalla microingegneria meccanica, ad esempio, quindi piccoli componenti meccanici di alta precisione, a settori diversissimi quali l'oreficeria, ad esempio, perché si utilizza in modo molto razionale il materiale, agli stessi componenti medicali, protesistici, ad esempio pensiamo solo al settore dentario, delle protesistiche dentarie. Per adesso sono ipotesi o ci sono già i margini per entrare in questi settori? Ma ci sono, cioè, la tecnologia di base c'è, naturalmente si tratta di fare un percorso, diciamo, di sviluppo, di adattamento, diciamo, delle macchine e diverse applicazioni, ma diciamo, poi non siamo solo noi, ovviamente c'è, cioè, il mondo che si sta muovendo in questa direzione, questa frontiera. Cioè, queste tecnologie di frontiera che consentono di saltare appunto i passaggi manifatturieri intermedi tradizionali sono in fase, diciamo, di sviluppo e di implementazione industriale. Al momento l'intero processo è fatto in Italia? Dunque, come dicevo, noi siamo una delle entità che si sta occupando in Europa di queste attività. Sì, quello che facciamo noi lo facciamo praticamente interamente. Abbiamo un gruppo di lavoro che sviluppa la macchina e poi abbiamo esperti di materiali che si occupano dello sviluppo dei materiali per questa applicazione. Ci ha fatto degli esempi di applicazioni altamente specializzate. Secondo lei ci sono applicazioni interessanti anche in situazioni meno ricche? Cioè, possiamo pensare anche di poterlo utilizzare in una situazione più quotidiana di consumo? Ma questo ancora è difficile dirlo, diciamo, a priori. Potrebbe anche essere che se le richieste, diciamo, del mercato del consumo non sono troppo sofisticate, potrebbe essere anche un principio utilizzabile in ambito semi, diciamo, da consumatore di massa, diciamo, ecco. Però la vedo come una cosa molto più in là nel tempo, diciamo. Attualmente quanto costa e quanto pesa il costo sul progetto di sviluppo? Ma il costo delle macchine all'incirca è sull'ordine di qualche centinaio di migliaia di euro, diciamo. Ecco, poi dipende dalla specializzazione, dal tipo di applicazione. Quindi poi nella produzione del prodotto finito ha un peso importante oppure viene comunque diluito molto nel tempo? Ma naturalmente queste tecnologie si offrono come tecnologie competitive con altre che magari attraverso le quali non si riescono a fare gli stessi componenti. Parliamo mai di componenti, appunto, come citavo prima, particolari per protesistica, per oreficeria e così via. Chiaramente sono tecniche di fabbricazione stampante tridimensionale, non sono tecniche di fabbricazione in grandissima serie, quindi chiaramente quelle rimarranno sempre competitive nella riproduzione dello stesso oggetto, però hanno un potenziale enorme nella invece di fabbricare oggetti su misura, quindi unici, se vogliamo, e quindi con tutte le implicazioni che questo può avere. E insomma, applicazioni che vanno dall'oro fino al biomedicale, le protesi personalizzate. Per rimanere in argomento, io vi prendo un post da 3D Printer for All, che è un blog aperto da studenti del corso di rivoluzione digitale al Politecnico di Torino, dedicato proprio alle stampanti in 3D. Ecco, il loro ultimo post del giugno del 2012 parlava proprio dell'applicazione delle stampanti 3D nella ingegneria molecolare. Dice infatti che gli studi di ingegneria molecolare stanno progredendo sempre più attraverso l'ausilio di tecnologie migliori e innovative. Presto sarà possibile stampare tessuti e organi umani che potrebbero essere così impiantati. È abbastanza affascinante come prospettiva. È molto affascinante, naturalmente è anche importante immaginare tutti gli step critici di questi passaggi, perché quando parliamo di produzione di oggetti è una cosa, e quando entriamo nell'ambito della produzione di tessuti o comunque di componenti che sono un po' bioniche, allora lì, ecco, l'attenzione naturalmente anche a tutte, per esempio, le interazioni con il corpo, con la parte biologica, diventeranno critiche prima ancora che forse la bellezza dell'oggetto in sé. Quindi sicuramente le prospettive però sono curiose. Io credo che questo rimarrà uno dei temi su cui compensa te che torneremo. E chissà cosa ne pensano i nostri ascoltatori. Effettivamente cominciare a parlare di interazione tra qualcosa di stampato e il proprio corpo umano veramente è strano. Credo che le reazioni personali possano cambiare da persona a persona. Allora io chiedo anche ai nostri ascoltatori che cosa stanno pensando in questo racconti di varie applicazioni situazioni in cui possono applicate le stampanti 3D. Vi ricordo i contatti, l'SMS è il 348-7649-289, la mail diretta è chiocciola@radiocittadelcapo.it e i nostri social network su Twitter chiocciola Pensatech con il CH e la pagina Facebook di Radio Città del Capo. Vi leggo subito un SMS che ci è arrivato e qua si gioca davvero con l'immagine della stampa in 3D, perché Manu ci scrive: ciao, mi piacerebbe avere una me stessa in 3D, una piccola statuina. E al di là di questi desideri un po' particolari dei nostri ascoltatori, e dopo aver parlato un po' delle frontiere futuribili della stampa in 3D, noi vogliamo introdurre il nostro secondo ospite, perché è qualcuno che con la stampa 3D ha a che fare da molto tempo e in una maniera abbastanza concreta. Lui si chiama Ignazio Pomini e do subito il buongiorno. Buongiorno Pomini. Buongiorno. Allora, diciamo, Pomini, titolare di una società che sta a Trento, che si chiama HSL, Xunt Leones, poi magari ci spiegherà anche il perché, e appunto con la stampa in 3D ha a che fare da molti anni. Intanto, che cosa producete? Qual è il vostro business in senso stretto? Ma HSL produce prodotti per terzi, e quindi prodotti e servizi per terzi. HSL è nata come azienda di supporto alle aziende, quindi sviluppiamo, oggi cresciuti attraverso 23 anni di attività, oggi produciamo una serie di servizi che vanno dall'industrial design alla progettazione di prodotto, ai prototipi, quindi in tutte le salse, attrezzature di produzione e a produzioni di nicchia. Quindi insomma seguiamo un percorso completo e integrato in cui la caratteristica fondamentale è la competenza, perché è quella che dà valore aggiunto alle cose. Ecco, a proposito proprio di competenza, quando insomma si sente parlare di stampanti 3D, si sente sempre parlare di stampa 3D in ambito amatoriale, invece dal suo punto di vista professionale, proprio di chi è competente in materia, cosa pensa di questa ipotetica terza rivoluzione, di questo tutto slancio futuribile della stampa 3D? Magari completo un po' il quadro fatto fino un attimo fa. Questa attività, con uno sbocco prevalentemente industriale, si è allargata a partire da alcuni anni fa, quando per i motivi più diversi, c'entra sicuramente anche la crisi, abbiamo deciso che era giunto il momento di iniziare a utilizzare le nostre risorse e quindi le nostre stampanti 3D, che sono di tipo professionale ma sono sempre stampanti 3D, abbiamo deciso di utilizzarle appunto per fare i nostri prodotti con delle caratteristiche importanti e per noi molto forti. Diciamo che più o meno in parallelo ha cominciato a decollare il mondo delle stampanti 3D desktop, quindi con uso diciamo anche casalingo, si è aperto questo forte dibattito, soprattutto sulla rete, ma non solo, che apre prospettive economiche di un certo tipo all'economia italiana, ma non solo italiana. Il mio pensiero è, provo a riassumerlo velocemente, quello che passa, il messaggio che passa sulla stampa, sui media in generale, è che questo nuovo modello produttivo, anzi modello per progettare e produrre, perché di pari passo le due cose, sono fortemente abbinati, questo modello si propone come un modello in grado di fare tutto bene, quasi gratis e subito. In realtà questo concetto deve essere, credo, un po' criticato, rielaborato, non bocciato, però deve essere un oggetto di critica. E per quali motivi, insomma? Cioè, non è proprio così? Ci sono in realtà... Diciamo che questo modello è il modello della fabbrica in una stanza, no? Quindi nella stanza ci mettiamo la capacità di progettare, la capacità di creare, la capacità di produrre, e diciamo di completare, di finire degli oggetti. Mancano degli elementi fondamentali per farlo diventare una come dire, un'opportunità di business. Quindi sta dicendo... stiamo parlando di di un modello che è destinato a fare economia e quindi a produrre business, e per fare business ci vogliono altri requisiti che qui non sono raccontati. E quindi praticamente quello che ci sta dicendo è fondamentalmente che ci possono essere due livelli di questa fantomatica rivoluzione: una che sta all'interno del mercato domestico, in cui ognuno lo fa per hobby, per passione, per divertimento, e dall'altra parte invece, se uno vuole entrare in un ambito commerciale più professionale, servono anche competenze più specifiche e anche investimenti maggiori. Ma io direi una cosa: lei ha usato la parola giusta, hobby domestico. Poi attenzione, che partendo da un hobby domestico, dal famoso garage di Steve Jobs, si arriva anche a fare delle industrie, però non è così semplice e così banale. Quindi l'opportunità di sviluppare un'attività sicuramente ci può essere, ma va supportata da altri contenuti. Il rischio è che questa attività si risolva a fare dei gadget, e che quindi si invada il mondo con gadget di un tipo diverso da quelli che si usano oggi, quindi fatti con tecnologie diverse, però oggetti usa e getta destinati a una fortissima competizione senza valore aggiunto. Altro discorso è pensare a prodotti che sono oggetti molto complessi, magari con un mix di telefonie e di tecnologie. Pensiamo all'iPhone, che ha moltissimi contenuti. Sono necessarie molte competenze, sia a livello progettuale che a livello tecnico. Bisogna conoscere i materiali, bisogna conoscere la fisica, la chimica, cioè per fare un prodotto ci sono dei requisiti. Ci va una struttura. Pensare di fare prodotti in una stanza è forse molto troppo limitativo. Ci vanno quantomeno dei collegamenti con strutture che sappiano poi completare. Ci va una capacità di spesa, quindi la possibilità di fare investimenti e quindi finanza. Non si parla di grandissima finanza, però pur sempre la possibilità di poter ricorrere a finanziamenti importanti, perché vado ad avere a disposizione finanziamenti che sono sicuramente più forti delle tasche delle persone, voglio dire. Certo, cioè, quindi forse rimane una... E soprattutto poi ci va la capacità di fare business, che in questi modelli manca sempre una parola, la parola vendite. Queste cose devono essere vendute, quindi fare le cose non dico che sia facile, però può essere molto più facile che poi venderle. Certo. Venderle vuol dire fare marketing a monte, e a monte fare strategia. Ecco, quindi una cosa completamente più complessa sicuramente di quella dell'idea romantica forse del business fatto in una stanza sola. Noi ringraziamo moltissimo Ignazio Pomini, appunto fondatore di HSL di Trento, che si occupa proprio di stampa tridimensionale e non solo, da molti anni. Grazie mille per essere rimasto con noi. Grazie a voi. E sulla stampante 3D invece prodotta da piccole aziende ci spera ancora un nostro ascoltatore che si firma M e dice: la stampa in 3D penso possa essere una delle prospettive future anche per l'economia del nostro territorio, già abituato ad articolarsi in medie, piccole e piccolissime imprese, e ci fa i complimenti, quindi noi lo ringraziamo. In chiusura, a questo punto, noi vogliamo ricordare un appuntamento per noi importante per il weekend. Allora, Elisabetta Tola. Ne abbiamo parlato venerdì scorso a Pensatech, lo stiamo rilanciando. Oggi alle 2 apre il primo Spaghetti Open Data Raduno italiano, e forse uno dei più importanti momenti di incontro, perfino a livello internazionale. Più di 200 iscritti, pensate, tutti per passaparola attraverso la voce. Gli Spaghetti Open Data sono cittadine e cittadine interessate a promuovere la cultura dei dati aperti, e quindi anche col sostegno della Regione Emilia-Romagna. Infatti il primo appuntamento di oggi è in Viale Aldo Moro 18, e poi domani c'è una super hackathon all'Urban Center e domenica un corso di mappe. Il raduno è dedicato ad Aaron Sparks, hacker, attivista dei dati aperti, una persona speciale con una grandissima visione, che è anche quello che ci ha portato l'RSS, uno dei protocolli che usiamo di più anche per i podcast e per reperimento di notizie in rete. Aaron Swartz si è ucciso venerdì scorso a New York, era sotto processo per avere scaricato più di 4 milioni documenti, di articoli scientifici dal sito JSTOR, e l'MIT e l'Avvocatura di Stato l'avevano quindi denunciato proprio per violazione del copyright. Non è che c'è un, non ci si può dire che ci sia un link diretto fra questi due eventi, ma sicuramente la rete sta molto molto discutendo della situazione appunto pesante, perché il carico diciamo giudiziario a carico di Aaron Swartz andava fino a 35 anni potenziali possibili di prigione. E quindi il raduno di oggi è dedicato anche ad Aaron, e ricordo quindi ancora spaghetti open data, sul sito c'è tutto. E allora, per chi ci sarà l'appuntamento a Spaghetti Open Data, per tutti gli altri ci risentiamo in replica su rcdc.it. Una buona giornata a tutti. Ciao, ciao a tutti, alla prossima. Ciao.